sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano chiede la nomina urgente del nuovo ministro dello sviluppo. Commercio, vendite ancora in calo. Conto alla rovescia per gli stress test sulle banche europee. Marea nera, la tempesta Bonnie colpisce il Golfo del Messico. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, dalla redazione di Radio 24. Come in questi minuti il discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Quirinale è in apertura e in diretta, abbiamo Elisabetta Fiorito. Sì Daniele, non lesina critica il capo dello Stato Giorgio Napolitano durante la cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare al Quirinale. Prima di tutto sprona il governo ad effettuare le nomine ancora vacanti. L'istituzione governo non può ormai sottrarsi a decisioni dovute, come quella della nomina di un titolare del Ministero dello Sviluppo Economico o del presidente di un importante organo di garanzia quale la Consob. Sulla manovra economica il Presidente della Repubblica non dà parere negativo, anzi dice che abbiamo fatto prima della Germania. Nessun catastrofismo per quel che riguarda l'Italia, ma consapevole realismo nel valutare le attuali tendenze. Si sta risalendo la china da una pesante caduta e si sta manifestando una significativa ripresa della produzione industriale. Ma sono soprattutto le inchieste sulla cosiddetta loggia P3 a preoccupare il Capo dello Stato. Napolitano denuncia. Ci indigna ed allarma l'emergere di fenomeni di corruzione e di trame inquinanti, anche ad opera di squallide consorterie, ma la nostra democrazia e vorrei dire la collettività nazionale dispone di validi anticorpi. In primo luogo la capacità di reazione morale dei cittadini e insieme la vitalità dei principi costituzionali e dei presidi costituiti dalle leggi ispirate a quei principi e affidati alla preziosa azione della magistratura e delle forze dell'ordine. C'è poi la questione del disegno di legge sulle intercettazioni. Ho agito secondo la Costituzione, spiega il Capo dello Stato, senza nessuna interferenza nella dialettica politica o nell'attività del Parlamento, e non deve stupire che il provvedimento abbia richiesto un tempo non breve e un percorso faticoso. Infine Napolitano esclude un possibile cambio di governo, non mi interessano, dice, scenari politici ipotetici. E per il momento qui dal Quirinale è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, continua il dibattito sollevato dall'annuncio del numero uno Marchionne di produrre in Serbia il nuovo monovolume Fiat e continuano le iniziative di protesta. Sciopero a Mirafiori ma anche in altri stabilimenti Fiat, una protesta che era stata indetta dalla FIOM contro i licenziamenti e sul premio di risultato, alla quale però oggi si è aggiunto il no dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla decisione del Lingotto di spostare in Serbia la produzione della nuova monovolume, una decisione motivata dall'inaffidabilità dei sindacati italiani che ha però subito suscitato critiche non solo dall'opposizione ma anche dal governo e dalla maggioranza, in particolare dalla Lega. Il ministro del Lavoro Sacconi ha invitato l'azienda a riaprire subito il confronto e lo stesso ha fatto il segretario del PD Bersani. Dure anche le prese di posizione da parte dei sindacati. Per il segretario della CGIL Epifani l'auto ha bisogno di certezze, mentre la decisione di spostare la produzione in Serbia testimonia l'assenza di chiarezza sui progetti industriali della Fiat. Andrea Viali, GR24, il Sole 24 Ore, Roma. Le vendite al dettaglio a maggio sono calate dell'1,9% su base annua e dello 0,3% su base mensile. Lo comunica l'Istat, che sottolinea si tratta di un risultato negativo, il secondo consecutivo spalmato in modo omogeneo sul comparto alimentare che su quello non alimentare. E il conto alla rovescia per gli stress test sulle banche europee. Questa sera a mercati chiusi saranno diffusi i risultati su 91 banche europee. In diretta Deborah Rosciani per gli aggiornamenti sulle borse. Sì, e ci sono anche 5 banche italiane al centro di questo esame, di cui conosceremo i risultati, come diceva Daniele Biacchesi, questa sera. Allora, in attesa di questi risultati, per l'appunto, le borse oggi hanno cambiato più volte direzione. Adesso il quadro è particolarmente chiaro per Parigi e Francoforte, che sono positive per oltre mezzo punto percentuale. Su Francoforte pesa soprattutto in positivo l'IFO tedesco, un indicatore di fiducia sempre molto atteso dal mercato, che è risultato migliore delle attese. Quadro negativo invece per Londra, che perde lo 0,13%, il FTSE MIB a Piazza Affari meno 0,19%. 10 delle 91 banche europee sottoposte ai test potrebbero non superare il test di resistenza alla crisi, secondo l'indagine condotta da Goldman Sachs. Questo è quanto è trapelato questa mattina dal mercato. Le banche spagnole, tedesche e greche sono quelle che avrebbero maggior necessità di capitali freschi, ma lo sapremo stasera, Daniele. Grazie Debora, e ora veniamo alla pagina internazionale. Golfo del Messico, in arrivo una tempesta tropicale e BP sospende i lavori nel pozzo per bloccare la fuoriuscita di petrolio. Tutte le attività sul pozzo Macondo all'origine della Marea Nera e quelle di ripulitura del Golfo del Messico sono state sospese per l'arrivo della tempesta tropicale Bonnie, previsto nelle prime ore di domani. Il pozzo sottomarino per il momento resterà chiuso, ha fatto sapere British Petroleum. Intanto lo studio di consulenza Oxford Economics ha diffuso le stime sui danni della Marea Nera sul turismo. In 3 anni la fuoriuscita di greggio nel Golfo potrebbe far perdere 22,7 miliardi di dollari in proventi da questo settore ai 5 stati americani colpiti. Il turismo, ricorda lo studio, è uno dei motori economici più importanti della regione del Golfo. I turisti vi hanno speso più di 34 miliardi di dollari nel 2008, alimentando 400.000 posti di lavoro. E per dare un segnale concreto, la famiglia Obama ha cambiato i piani delle sue vacanze estive. Nella settimana di Ferragosto non partirà più per il nord-est degli Stati Uniti, ma andrà sul Golfo del Messico, devastato dalla Marea Nera. Nei giorni scorsi sia il presidente che la First Lady avevano pubblicamente incoraggiato gli americani a passare le vacanze lungo la costa del Golfo del Messico, proprio per sostenere il turismo in crisi. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. È piena crisi diplomatica tra i due paesi sudamericani, Venezuela e Colombia, i due presidenti Chavez e Uribe. Una decisione pesantissima annunciata durante l'incontro sui generis. Hugo Chavez a fianco dell'amico e sostenitore Diego Armando Maradona. La rottura delle relazioni diplomatiche con la Colombia nasce dalla grave accusa mossa da Bogotà sull'esistenza di decine di basi della guerriglia delle FARC in territorio venezuelano. Presenza che sarebbe tollerata dal governo chavista e su cui è stata chiamata a intervenire l'OEA, l'Organizzazione degli Stati Americani. Per Chavez sono invece tutte fandonie, l'ultima scellerata mossa del presidente uscente Uribe, con il quale si è scontrato più volte in passato accusandolo ripetutamente di essere un burattino agli ordini di Washington. La lunga frontiera comune è una delle zone più calde del Sud America, terreno privilegiato del narcotraffico e del traffico di armi, ma anche crocevia essenziale per la bilancia commerciale fra i due paesi. Caracas importa alimenti e generi di prima necessità ed esporta petrolio e gas. Chavez non ha escluso una mobilitazione di truppe a fini preventivi. Al suo fianco l'ex Pibe de Oro, che approvava, coprotagonista volente o no, di una delle più gravi crisi diplomatiche sudamericane degli ultimi anni. Emiliano Guanella, GR24, Sole 24 Ore. Vediamo alla cronaca. Sono stati arrestati tutti gli assassini dell'uomo aggredito, ucciso con calci e pugni 2 notti fa davanti al chiosco di un ambulante a Lissone, in Brianza. Sono 2 uomini fermati dai carabinieri a Muggio, vicino a Monza. I 2 sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Avrebbero ucciso l'uomo dopo una lite per una birra. In chiusura la pagina sportiva, scatta oggi un fine settimana decisivo per i motori. La MotoGP a Laguna Seca negli Stati Uniti, Formula 1 invece in Germania. Un separato in casa e 2 che invece alla loro casa si aggrappano per non andare a fondo. Valentino Rossi da una parte e Alonso e Massa dall'altra sono le 2 facce opposte di questo fine settimana che vede sfrecciare le 2 ruote a Laguna Seca, Stati Uniti, e la Formula 1 ad Hockenheim, Germania. Valentino Rossi e la Yamaha ormai si sopportano malvolentieri. Il 4º posto del Sachsenring ha convinto tutti sul rientro del campione pesarese, tranne i responsabili del suo team, che avrebbero preferito un proseguo del mondiale più tranquillo senza un Rossi a dar fastidio a Lorenzo lanciato verso il titolo. Così Valentino, in attesa di sposare la Ducati, ha saltato gli appuntamenti promozionali del team in America ed oggi parte alla caccia della pole. In Germania invece Alonso e Massa, dopo 2 gare catastrofiche, si appoggiano al lavoro della Ferrari, sperando che i tecnici di Maranello con il nuovo diffusore abbiano compiuto il miracolo, rendendo la F10 più competitiva e vicina a Red Bull e McLaren, finora apparse più veloci e complete delle rosse. Alla ricerca della sterzata davanti al suo pubblico va anche Schumacher. Per lui finora è stato un mondiale da dimenticare. Basterà l'aria di casa per il riscatto? Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Varato il calendario della Celtic League, la competizione sovranazionale di rugby che vede quest'anno l'esordio di due squadre italiane, ma ancora manca in Italia la copertura TV, il servizio. Manca meno di un mese e mezzo a un cambiamento epocale per il rugby italiano. Nel primo fine settimana di settembre, infatti, le rappresentative del Benetton e degli Aironi debutteranno nella Celtic League, il campionato di alto livello che già raggruppa le selezioni di Irlanda, Galles e Scozia. Si spera che questo torneo rafforzi il movimento dal punto di vista della qualità dei giocatori impegnati, ma anche della popolarità di questo sport. Intanto però i diritti televisivi per il nostro paese non sono ancora stati assegnati. È evidente che la diffusione in chiaro delle partite sarebbe la soluzione ottimale per avvicinare il pubblico a un torneo sconosciuto alla stragrande maggioranza degli italiani. Eppure, secondo quanto risulta, le trattative portate avanti dal board della manifestazione vedono in pole position Dalia, Pay TV attiva sul versante del digitale terrestre. In attesa di una comunicazione ufficiale che potrebbe arrivare già la prossima settimana, si può dire che questa soluzione non favorirebbe una partenza lanciata in fatto di audience. Nel frattempo, ieri è stato reso noto il calendario. Prima partita in casa per il Benetton Treviso contro gli Scarlets gallesi, mentre gli Aironi giocheranno in Irlanda sul terreno del Munster. Giacomo Bagnasco, GR24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:12 minuti vi saluta qui Daniele Biacchesi, le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.